9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E c'è andato, c'è andato allo zoo. Cioè, nel senso che Berlusconi, dopo aver cambiato cambiato idea per la 177esima volta, è andato da Briatore, sta in Kenya. Nel frattempo nel suo partito sono al terrore. Alfano piagnucola dicendo: ma come, cambilini a Summonti? Addirittura Crosetto dice: sì, noi lo sapevamo che non andava ai giardinetti. Ma che? Ai giardinetti farebbe meno danni di quelli che fa. Bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Ma il perché no questa mattina è senza dubbio quello dei cittadini siciliani. Più di uno su due per la prima volta nella storia di quella regione hanno innanzitutto, grande notizia, deciso niente voto di scambio. Sono rimasti a casa al 53%. Questa è una grande svolta. La prossima la vedrete nelle poche ore che ci separano dai risultati, non dagli exit poll. Voglio vedere io l'operazione PD UDC di Crocetta, il sindaco costuttiano che si prestava a questo, come verrà travolta. Viva Grillo oggi! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Al tuo funerale, per vedere un pochino, un po' di cifre di funerali. Guardiamoli su due giornali diversi. Oggi sul Sole del lunedì mattina trovate le società comunali, bilanci 2011, sono migliaia. Bene, metà in rosso, perdite per 1 miliardo, tanto paga Pantalone. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Allora, ancora a proposito di funerale, questa volta prendete un altro giornale se siete torinesi o comunque ne vale la pena, compratelo. La Stampa di oggi, le prime 4 pagine. Il sistema Italia costa alle imprese 2/3 degli utili. Sapete cosa vuol dire 2/3 degli utili? Vuol dire che se operassero all'estero, le aziende italiane di noi che ci spacchiamo la schiena mentre ci derubano questi signori dei partiti che cambiano idea con Berlusconi ogni 5 minuti, si allenano tra casini, PD, PUDU, coi cossuttiani in Sicilia. Se operassero all'estero, le aziende di noi poveri fessi italiani avrebbero una redditività di 3 volte superiore, senza le tasse dei ladri di Stato, senza il costo del lavoro che ci costringe a dare il minimo invece di netto in tasca ai nostri dipendenti, e con l'energia che ha stabilito la politica insieme a sti due stupidi referendum energetici. Altro che questo sia il funerale. Viva, viva, viva se i siciliani oggi danno una scossa elettrica. Nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. E ritorno sul funerale per un'ultima pillola. Questa riguarda una delle vicende che più ci ha devastato come psicologia e come tasca in questo 2012. Limu, trovate due belle notizie su questo. Uno è sempre sul Sole del Lunedì, IMU supera aumenti fino all'ultimo. C'è la tabella completa per tutti i comuni degli aumenti delle aliquote al massimo. E dall'altra, su tutti gli altri giornali trovate gli appelli dei centri di assistenza fiscale che dicono: per favore, non ce la facciamo, non capiamo nulla su qual era l'ultima terza rata. Qua lo Stato ci tassa, noi non riusciamo a capire neanche spost quanto ci ha preso, perché chi è dove si deve fare i conti non ci capisce un cavolo. È così, Stato opaco, Stato ladro. Allora, oggi un inizio promettente di settimana, perché io sono convinto che questo voto delle regionali siciliane ci consegni l'inizio vero della taranta di un ballo travolgente che porterà i partiti a cambiare, spero, tono, leader e a diminuire molto di voti, perché io sono convintissimo che questa elezione regionale siciliana sia solo il piccolo antipasto di ciò che tra poco inizierà a esprimere concretamente quello che nella testa, nella pancia, nel portafoglio milioni di italiani da tempo dicono alla politica, che la politica naturalmente sottovaluta, perché figuriamoci la protesta, ma ci siamo noi, ma i partiti, ma volete mettere, ma Berlusconi, ma chi è questo Renzi che rompe le scatole, ma che vuole questo Grillo, eccetera eccetera. Detto questo, a furia di sottovalutare, a furia di produrre bilanci di latrocinio a cui si crede che la gente sia assuefatta, e persino anche, per fortuna, per prima, la Sicilia dà dei segni evidenti. E quindi, ripeto, oggi già il fatto che più di uno su due siciliani siano rimasti a casa è una grande cosa. Domani leggerete sui giornali sicuramente analisi che dicono: oh, grande preoccupazione per il calo dei voti in Sicilia, la partecipazione democratica diminuisce. No, e il problema è che lo schifo prevale e si dice intanto no al voto di scambio, che nel sud del nostro paese, ma anche nel nord, come abbiamo visto in Lombardia, intanto era ed è sempre stata una delle caratteristiche del voto italiano. E che in Sicilia si dica il voto di scambio, intanto tenetevelo, è già il primo grandioso segnale. Secondo, la sottovalutazione del fenomeno Grillo da parte dei vecchi partiti mi sembra che potrebbe essere tumultuosamente confermata, e la possibilità di vedere a livello nazionale alleanze come quella del PD-UDC mi sembra che anch'essa potrebbe incassare un bel silurone. Vediamo però. Prima aspettare i voti, poi aspettare di capire come si parla da questo punto di vista. Però intanto il primo segnale è molto, molto, molto incoraggiante. E allora, siccome proprio stiamo parlando di Sicilia ed è alla Sicilia che si volgeranno le orecchie per tutto il giorno in attesa della conta dei voti, noi questa mattina nel nostro quadro di riepilogo, nel dar voce e ascolto a voci di imprenditori disperati per come nel nostro paese non sia più possibile tenere in piedi impresa con queste regole e questi costi, cominciamo proprio dalla Sicilia, perché in questi giorni l'ANCE, l'associazione dei costruttori siciliani, ha annunciato un'iniziativa che in una regione con i problemi economici che ha la Sicilia non è proprio, per così dire, che si assuma a cuor leggero, perché hanno annunciato il blocco totale dei cantieri in corso. Abbiamo con noi Salvo Ferlito, che è il presidente di ANCE Sicilia. Buongiorno presidente. Buongiorno dottore, grazie della possibilità che ci date di poter far presente ai siciliani e non solo a tutta l'Italia dei nostri gravi problemi. Allora, chiusura di 500 cantieri, ci sono 40.000 persone in questi 500 cantieri. Perché siete arrivati a questa decisione così estrema di protesta, ovviamente? Perché ormai siamo arrivati, come si suol dire, oltre la frutta. I 40.000 sarebbero quelli nuovi. Già lei deve sapere che nei due anni scorsi sono stati già licenziati 46.000, hanno perso il lavoro 46.000 operai censiti dalle nostre casserie, il sistema bilaterale, ANCE sindacati, più 30.000 nell'indotto, quindi sarebbero 76.000. E voglio, con 1,5 miliardi di debiti che praticamente lo Stato ha nei confronti delle nostre imprese, solo quelle siciliane. Allora, voglio esordire dicendo, la settimana scorsa facemmo un'assemblea per sentire un po' tutti i soci. Sai qual è stata la cosa che mi ha detto un socio che mi ha più di tutti colpito? Prima non dormivo perché pagavo il pizzo, ho denunciato, hanno arrestato gli estortori, ora non dormo perché lo Stato non mi paga. Questo è anche di interpretare tutta Italia, perché siamo stati venerdì a Roma, giovedì con Buzzetti e gli amici e i colleghi dell'ANCE di tutta Italia, e meno male, la Sicilia è una situazione un po' più grave, però ritengo che un po' in tutta Italia la media sia proprio al di sotto di gran lunga al di sotto di quella europea. Senta, in una lettera che avete inviato e ha inviato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio Napolitano e Monti, lei chiede, lancia un appello e dice: commissariate la regione siciliana per i fondi dell'Unione Europea prima che sia troppo tardi. Dice: ci sono 10 miliardi di euro di fondi europei assegnati alle infrastrutture della Sicilia per il periodo 2007-2013 che giacciono inutilizzati, perché se la regione siciliana svincolasse la propria quota di cofinanziamento obbligatorio violerebbe il patto di stabilità. Allora ci spiega come è possibile ancora, di fronte a questa durezza della crisi che morde un settore che dovrebbe essere anticiclico e che invece abbiamo reso più che ciclico, quello delle costruzioni in Italia, per gli errori delle nostre regole pubbliche, come è possibile che in Sicilia ci sono 10 miliardi di risorse non utilizzate? Guardi, purtroppo c'è questa applicazione troppo regionalistica del patto di stabilità che impedisce, fa la sua parte. Però io credo che il grosso siano problemi burocratici, no, sono sicuramente, perché per un disto, per un problema, per un non nulla, cioè, si bloccano a parte, gliene potrei citare alcune. Per esempio il CIPA ha deliberato 1,089 miliardi, di cui buona parte nella Sicilia orientale, il resto spezzettato in tutti i comuni, fermo da mesi, non se ne sa nulla. La Nord-Sud un appalto di 300 milioni, più altri più piccoletti da 50, da 100, non se ne sa nulla. I lotti 6, 7, 8 della Siracusa-Gela abbiamo fatto assieme agli amministratori locali, la guerra, il CAS, Consorzio Stato Siciliane, attende un visto dall'ANAS e non se ne sa nulla. Insomma, piano casa, è tutto fermo, tutto bloccato, tutto, ci siamo impantanati in mille rivoli, quindi ci sono, è una componente di tanti fatti, non è un solo fatto, ma in ogni caso c'è il problema della mala amministrazione, della mala burocrazia. Cioè, io ritengo che non siamo stati amministrati bene, ma la storia dura da tanto tempo, ecco perché siamo arrivati ai 70.000 licenziamenti, al blocco dei cantieri e quant'altro. Se lo Stato non onora per primo gli impegni, noi come facciamo? Senta, nelle sue dichiarazioni ho letto che il governo regionale uscente ha dedicato riunioni su riunioni, le ultime giunte, quelle di urgenza, quelle in cui si passano le, per così dire, le delibere che sono considerate più utili per la campagna elettorale, e lei ha detto: hanno assicurato la continuità alle solite prestazioni di forestali, formatori e precari, ma naturalmente per le imprese edilizie che stanno in questa condizione per via del fatto che lo Stato non onora la sua parola, niente da fare. Come mai? Perché naturalmente uno sarebbe portato a credere che in Sicilia invece avvenga il contrario, cioè anche in Sicilia lo Stato e la politica hanno voltato le spalle al settore delle costruzioni. Guardi, noi abbiamo protestato sempre in maniera civile e ritengo che abbiamo contribuito non poco con la nostra presenza costante, la nostra pressione costante per far aumentare il tetto del patto di stabilità dei 600 milioni di euro. E noi ci siamo rimasti molto ma molto male, perché pensavamo che la regione investiva 100, 150, 200 milioni, se sentire che alla fine sono rimasti gli spiccioli, che peraltro sono tutte in descrizione, mica hanno avuto il coraggio di dire le cose per come stavano, non lo dice nessuno, sono prevalse le logiche di pagare forse gli stipendi ai regionali, forestali e quant'altro per evitare problemi di ordine pubblico, così mi dicono sotto banco e sotto voce, come se i nostri dipendenti fossero di serie B, gli impiegati, gli operai delle aziende private e quelli regionali di serie A. Allora ci riducono a fare la guerra dei poveri. Io credo che i lavoratori vadano tutti trattati allo stesso modo, quindi se le somme non bastavano per tutti, forse bisognava dare degli acconti a tutti, ma non è inaccettabile questo aver messo da parte, anche perché, mi creda, non è più un problema delle imprese o degli operai delle imprese, è un problema della Sicilia, e se la Sicilia fa ancora parte dell'Italia, io credo sia un problema di tutta l'Italia. Per questo ho scritto a Monti e Napolitano, che hanno dato insomma segnali, il Presidente, nonostante la grande età, forse la persona che meglio ragiona in Italia, perché cioè, veramente qua abbiamo perso il lume, la ragione, abbiamo perso tutto. Dottore, qua il problema è un altro: i 10 miliardi di euro che bisogna spenderli, e comunque non li faranno i lavori tutte le imprese siciliane, perché li faranno le imprese di tutta Italia. Cioè, quasi perde l'ultima occasione per ammodernare il paese, questo gap infrastrutturale che è già, quello italiano è molto più basso di quello europeo, quello siciliano è 4 volte meno di quello italiano come i pagamenti, perché i pagamenti in Europa si paga a 180 giorni, cioè la media in Europa è 65 giorni, in Italia 180 giorni, in Sicilia è 360. Quindi allora, se non abbattiamo questi gap infrastrutturali e anche di pagamenti e tutto, ma la Sicilia dove va a finire? Quindi dico, è logico pensare, se la Sicilia va a rotoli, e per questo abbiamo chiesto lo stato di crisi, ma non si tira tutta l'Italia. Altro che, guardi, io devo aggiungere che sono rimasto senza parole per il solo fatto che la politica abbia consentito, voltandosi dall'altra parte, che le elezioni regionali si tenessero senza certificare, per esempio, che i 17 miliardi di avanzi primari che sono vantati dalla regione Sicilia al suo bilancio, cioè come crediti esigibili, non avanzi primari, perdoni, sono per tre quarti o quattro quinti inesigibili. Cioè c'è una situazione di fallimento tecnico, secondo me, nei conti della regione siciliana. Detto questo, lei ha perfettamente ragione, la Sicilia ha un tale rilievo che non si può far finta di niente. Però le chiedo, di fronte a questi primi segnali che vengono stamattina dall'esito di un voto a cui ha partecipato meno di un siciliano su due, vedremo poi i risultati, non chiedo commenti sui risultati, ma questa partecipazione così bassa per lei è una sorpresa, e per le imprese private, per i suoi iscritti è una sorpresa, o che cosa a cosa prelude questo segnale, no, secondo lei? Non è una sorpresa, anche se dico questo è stato un errore, perché il diritto al voto è sacrosanto, ma è anche un dovere, forse anche il dovere forse dovrebbe vincere anche sul discorso del diritto. E no, qua era nell'aria, perché la gente, come le dicevo in apertura, è oltre la frutta, la gente, cioè i giovani a casa, disoccupati, e le imprese che chiudono. Guardi, io nel frattempo che la chiamo, ho davanti a me Lettra, un posto bellissimo. Io abito ad Acireale, se lei scende per le vie principali di Acireale, tutti i negozi, metà dei negozi sono chiusi e l'altra metà che è rimasta sono tutti vuoti. Allora, voglio dire, l'economia è morta. Quindi bisogna fare, intanto ci vuole una rivoluzione culturale, perché non possiamo più andare avanti con questi vecchi metodi. Io credo che veramente bisogna fare uno sforzo tutti, come si è fatto nel dopoguerra, di rimboccarci le maniche e pensare a lavorare tutti, perché non è possibile pensare di avere il posto e poi qualcuno dice, anche estremizzando, lo stipendificio. Bisogna convincerci che dobbiamo lavorare, chi lavora tanto forse deve lavorare meno, ma dobbiamo lavorare tutti, non è possibile. Guardi, non era per nulla una sorpresa, aleggiava nell'aria, i nostri stessi operai, ma che cosa andiamo, che cosa, siamo stati abbandonati, quindi era prevedibile, insomma, questa cosa. Allora, io intanto ringrazio Salvo Ferrito, il presidente dell'ANCE Sicilia, e mi stringo in solidarietà a tutti gli imprenditori del settore, e soprattutto naturalmente penso ai 75.000 che hanno perso il posto, per così dire, nella crisi. Stiamo parlando di cifre imponenti, come vedete, e ancora una volta dietro c'è il meccanismo di uno Stato incapace di tenere i conti, incapace di distinguere conti virtuosi da conti non virtuosi, incapace di utilizzare una mole di risorse che perderemo col prossimo governo, se il prossimo governo appena nato, saranno gli ultimi mesi per la negoziazione decisiva in Europa, per i fondi europei, tutti quelli non utilizzati, l'Europa non ci farà sconti e ce li leveremo, e sono praticamente gli unici, o comunque la stragrande maggioranza, di fondi pubblici per fare interventi infrastrutturali, per politiche strutturali nel sud, per tentare di colmare il gap. Questo è l'amaro bilancio dei partiti che ci consegnano in questi anni, questo è l'amaro bilancio. Quindi io penso invece che questi segni, compresa la protesta di non partecipare, perché non partecipare a un voto è l'espressione di una disolazione totale, del ripudio totale di una qualunque offerta politica, quindi io credo che questo sia comunque un segnale di fronte ai quali vediamo la politica come reagirà. Allora passiamo a un altro imprenditore. Questa è una storia di burocrazia dall'altra parte d'Italia, nel nord per così dire, ed è con noi Fabio Pallaro, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, buongiorno. Ci ha mandato una lettera di una classica storia di burocrazia che blocca un'impresa all'inizio, ce la riepilo? Sì, fondamentalmente io e un socio ormai quasi 3 anni fa pensiamo a sviluppare un progetto imprenditoriale. Noi svolgiamo già altre attività nel campo della ristorazione, quindi sviluppiamo il nostro business plan, selezioniamo fornitori, individuiamo un locale che per noi era adatto allo sviluppo della nostra attività, diciamo, e qui iniziano un po' i problemi. Noi siamo arrivati a fondamentalmente a firmare un preliminare di affitto con il locale, che però necessitava di un cambiamento di destinazione. quindi contratto poi di affitto di locazione che si poteva perfezionare solo nel momento in cui si sarebbe avvenuto il cambio di destinazione. Questo ha richiesto per noi, perché ovviamente prima del cambio di destinazione noi non potevamo iniziare né lavori di ristrutturazione, quindi né tantomeno pensare di sviluppare l'attività in tutte le sue parti. Quindi presentiamo una richiesta, un permesso di costruire che prevedeva già al suo interno un cambio poi di destinazione in commerciale dell'immobile interessato. Il Comune di Milano, essendo prevista la destinazione ristorazione, avrebbe dovuto passare alla ASL di Milano immediatamente la pratica per un parere preventivo. Questo passaggio è avvenuto anziché immediatamente dopo 60 giorni, quindi noi abbiamo presentato a luglio, inizio luglio, il 9 luglio per l'esattezza, la pratica di permesso di costruire. Il 13 settembre è passato all'ASL, quando in realtà poteva passare immediatamente perché si trattava solo di un passaggio formale di carte. Il 26 settembre noi abbiamo presentato un sollecito formale alla ASL di via Statuto. Ci hanno detto che sarebbero serviti 40 giorni per darci un parere. Ovviamente tutto andando e presentandoci personalmente all'ASL insieme al geometra incaricato. Sono passati quei 40 giorni e ancora la pratica non è stata evasa. L'unico avanzamento che ad oggi abbiamo è quello di un primo parere positivo preventivo del tecnico però del comune. Io faccio presente che poi la pratica, una volta passata all'esame al vaglio dell'ASL, dovrà ritornare al comune, sarà necessario comunque un esame ulteriore. Ora, a fronte dei tempi iniziali che c'erano stati prospettati di 60 al massimo 100 giorni, in realtà siamo già vicini, anzi abbiamo superato i 90 giorni e ancora praticamente non abbiamo nessuna certezza. Io volevo solo sottolineare che noi ovviamente abbiamo un contratto preliminare, abbiamo dei consulenti che stiamo già cominciando a pagare e cominciano ovviamente anche a preoccuparsi, e abbiamo un progetto di ristrutturazione che già è pronto, per il quale dei professionisti hanno anche già lavorato. Quindi noi siamo in questo momento in uno stallo completo, e quello che più ci dispiace, senza alcuna certezza dei tempi entro i quali poi il tutto potrà essere evaso e tutto potrà essere risolto. Caro dottor Pallaro, se li tenga stretti, perché le prime SMS dicono ma a Milano si stupiscono perché invece che 60 giorni da luglio a novembre sono passati solo 5 mesi, ma già sono riusciti ad andare abbastanza avanti rispetto ad altre città, ci dicono alcuni ascoltatori. Comunque lo Stato naturalmente considera l'imprenditore che inizia a avere costi prima che la sua impresa possa avere dallo Stato un qualunque segnale attendibile se possa iniziare a partire o meno, come un'impresa di folli in realtà. E siccome è un'impresa di folli, lo Stato si piglia tutto il tempo, tanto dice poi ci avrò tutto il tempo anche di fartela passare la voglia. Ripeto, mi pare efficace questa cosa della stampa che spieghi come le imprese italiane in qualunque altro paese, nei paesi medi avanzati, avrebbero risultati di 2/3 superiori a quelli che la livella pubblica, cieca e dilapidatrice e rapinatrice, invece impone a chi è così matto, caro Pallaro, da voler fare impresa e prendere dipendenti nel nostro paese. Alcuni ascoltatori mi segnalano che del resto tutto cambia, ma alcune cose restano sempre uguali, tipo i gol annullati quando sono del tutto legittimi agli avversari della Juventus. Sapete che io ogni tanto ci torno, perché non sono proprio molto favorevole a questo genere di cose che sono di una certa costanza nella storia della grande signora del calcio italiano, come alcuni la richiamano. Ma del resto altri dicono Sant'Ermelinda, la Sicilia si riagghinda. Vedo che prevale nei nostri ascoltatori, negli SMS che arrivano al 349-238-6666, l'atteggiamento che io condivido molto, di considerare questo voto siciliano come l'inizio della fine del vecchio sistema dei partiti, o almeno io me lo auguro che sia davvero così. E a questo proposito, ieri a Varese un amico, io giro molto per fare incontri in questi giorni, mi ha raccontato una storiellina che sicuramente molti di voi conosceranno, ma a me non era mai avvenuta alle orecchie, quindi ve la rigiro, del commento nel locale PD hanno fatto della candidatura di Matteo Renzi, che va avanti, sia pure un po' con un po' di ombra rispetto al periodo iniziale nel suo giro d'Italia da rottamatore, e la battuta è questa: Matteo Renzi, il primo bambino che mangia i comunisti. Vabbè, insomma, un po' berlusconiana, però continua a fare più ridere di Berlusconi, che invece secondo me ha dato la parola fine alla credibilità del residuo del suo partito. Cioè, È come quando ai tempi del vecchio, nei periodi più bui dell'impero romano, quando gli imperatori erano pazzi, quindi davano segni proprio più che manifesti di evidente andata oltre di ogni limite di equilibrio, e bisognava mettere mano a che i pretoriani risolvessero la questione, per così dire. Capite? Non sto parlando di omicidio, sto parlando di un metodo rapido deliberato da chi sta intorno per passare a un'altra cosa. Ed è questa la cosa più stupefacente di quello che resta di questa classe dirigente, soi-disant dirigente del PDL, che non ci sia un solo gradino più basso dopo una scalea infinita percorsa al ribasso della credibilità politica e personale che li induca a dire: hai fatto bene andare da Briatore, ma una sola condizione, che non devi tornare più. Cioè, questo è il piccolo problema. E invece niente. Cioè, oramai gli fanno dire qualunque cosa: che rifarà la riforma della giustizia, che caccerà Monti, che rotolerà l'Italia di nuovo a un livello di incredibilità dei mercati, come se ce ne fosse bisogno, eh? Perché vedrete che gli spread risalgono, vedrete che ci chiederanno gli aiuti europei, che pagherete voi che siete in ascolto. Però la politica si diverte. Ed è incredibile che nel PDL tutto questo non induca in questa lunga discesa, la perdita di credibilità, nessuno di loro a prendere un'iniziativa decisa. Oh, incredibile, persino il Gran Consiglio del Fascismo riuscì a votare l'ordine del giorno di Dino Grandi, il PDL no. Vabbè, andiamo avanti con altre testimonianze di imprenditori, dei matti che in questo paese pensano comunque di provare nella loro folle idea di tentare di creare impresa, appunto. Abbiamo con noi Rocco Ciaramella. Rocco Ciaramella, che ci ha scritto, è un imprenditore del comparto alimentare. Quindi torniamo alla questione dell'articolo 62, decreto liberalizzazioni, che è entrato in vigore dal 24 di ottobre e sta attraversando come una lama tagliente di spada, purtroppo, la continuità possibile per le aziende che si trovano ad essere oberate di nuovi atti e di adempimenti e con tempi di pagamento, in teoria concepiti dal ministro di settore come a tutela del piccolo contro la GDO rapinatrice. Nella realtà è l'esatto opposto, purtroppo. Allora, Ciaramella, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ci spieghi un secondo ciò per cui ci ha scritto. Sì, io in pratica sono un piccolo imprenditore del comparto alimentare, sono concessionario di una grande multinazionale, la quale mi ha concesso un termine di pagamento superiore ai 30 giorni previsto dal ministro. Solo che, diciamo, per l'entrata in vigore della legge, che è stata la settimana scorsa, io il 30 novembre dovrò pagare, invece che una fattura alla multinazionale, due fatture. Pertanto, se non pago le due fatture, devo pagare gli interessi alla multinazionale, devo pagare una multa, una sanzione che non sanno bene chi farà, perché non si capisce bene chi emetterà la sanzione. L'AGCOM, ma l'AGCOM dice che non ha il personale per poter fare questa cosa. E se io non volessi pagare queste cose dovrei andare in banca a chiedere un finanziamento, ma la banca in questo momento finanziamenti non ne fa. Pertanto io dal 30 novembre pagherò, non so ora quanto, però pagherò sanzioni, multe, eccetera. La cosa triste è che tutto questo favorisce quegli imprenditori che non emettono fattura, non ricevono fattura. Ma infatti è questo quello che mi ha colpito, Ciaramella. Cioè, lei ci ha scritto una cosa: dopo aver elencato gli adempimenti a cui è sottoposto e i rischi di sanzione a cui è sottoposto per questi adempimenti aggiuntivi, che nel suo caso possono essere sanzioni molto pesanti, perché siamo in un'orbita di grandezza dai 500 ai 500.000 euro, la conclusione sulla quale volevo che ce la ripetesse, perché lei ha detto alla fine: guardate che l'effetto di tutta questa roba qual è? È l'induzione a lavorare nero, a lavorare non onestamente. Perché lei dice così? Perché se io non se l'azienda mi fornisce non mi emette fattura, io non pago l'IVA, non pago la sanzione se pago in ritardo, non sono, è diventato troppo complicato così, perché io, no, se non mi mettessero fattura e avessi un fornitore che mi permette di acquistare senza fattura, non sono sottoposto all'aumento dell'IVA, non sono sottoposto alla sanzione, non sono sottoposto al pagamento della multa se non pago l'imposto facciale dell'assegno che è dell'ordine del 10%. Cioè, a questo punto, qual è il vantaggio di lavorare onestamente? Esatto. Il vantaggio economico di lavorare onestamente. Anche perché non c'è punizione per chi lavora in maniera disonesta. Allora, gli aggravi per chi è già sottoposto a un regime di trasparenza sono un classico sistema che lo Stato ci ha venduto in questi anni come un metodo per fare la lotta a chi invece sta nell'opacità. L'effetto, io sono totalmente d'accordo con Rocco Ciaramella, è quello di, moltiplicando gli aggravi a chi sta nella trasparenza, dare esclusivamente una mano a chi resta nella totale opacità, perché è ovvio che il divario di vantaggio diventa sempre più incolmabile, ma a favore di chi può contare sulla totale opacità. Questo è il problema. Gli effetti perversi di questo articolo 62 della liberalizzazione del settore agroalimentare, continueremo a parlarne, perché buttano per strada da piccoli ristoratori a intermediari fino a questo imprenditore che ci ha parlato, Rocco Ciaramella. Insomma, stiamo parlando di un fatturato che già inizia a essere importante, come avrete capito, però è un'intera catena che paga gli effetti contrari delle buone intenzioni, magari in buona fede, del ministro di questo governo, che si traducono in un disastro opposto. Non sempre i tecnici, come si vede, quando non hanno idea che cos'è un'impresa, tecnici teorici che non sanno cos'è l'impresa, studiano delle cose che, calate nella realtà dell'impresa, in una situazione asimmetrica tra Stato e impresa e asimmetrica tra imprese corrette e imprese scorrette che agiscono all'opacità, non fanno altro che aggravare una situazione già pregiudicata. Grazie anche a Rocco Ciaramella. Adesso sentiamo due telefonate. Edoardo da Bologna, prego Edoardo. Buongiorno Oscar. Senta, io telefono a proposito dei ritardi amministrativi per le aziende. Ecco, io la mia esperienza, per esempio, ho fatto un progetto su internet in Tunisia, l'ho spedito, dopo 24 ore mi hanno, diciamo, accolto la domanda. Dopo 24 ore in Tunisia? 24 ore, sì, 24 ore, esattamente, 24 ore. Cioè, una cosa incredibile che non... Cioè, non che lei ha proposto, ha presentato il progetto per internet? Sì, per internet, l'ho mandato alla Camera di Commercio, all'API di Tunisi. Loro, dopo 24 ore, mi hanno praticamente accettato il mio progetto, l'hanno accettato. Io ho preparato tutta la documentazione qui a Bologna, sono andato a Tunisi, in due giorni ho costituito l'azienda. Due giorni. Edoardo, queste sono le cose su cui riflettere, e lo dico con rispetto verso la Tunisia. Lei lo ha fatto prima della primavera araba, oggi le cose politicamente sono un po' cambiate, però via internet l'ok in 24 ore e poi di persona in due giorni è costituito l'azienda. Grazie Edoardo, perché ci fa capire che oramai la sponda sud del Mediterraneo ci prende legittimamente a calci in bocca, malgrado la tronfia disattenzione di una politica capace solo di dire mi ritiro, non mi ritiro dopo 20 anni. Che cosa pazzesca. Chi non vede il mondo che va avanti, ed è, sarà sempre il mondo di chi ha fame, si condanna ad affamare in maniera retrogressiva gli italiani, che pure avevano risolto questo problema. Questo è uno degli altri bilanci amari di questi anni. Sentiamo Massimo. Massimo che chiama da Napoli. Prego Massimo. Sì, buongiorno Oscar. Allora, esperienza diametralmente opposta sulla pubblica amministrazione. Seguo una serie di imprenditori che naturalmente hanno a mente di intraprendere iniziative che possano produrre, e presentato una serie di progetti al comune. Ma il comune di dove? Il comune di Napoli. E la cosa curiosa è che, nonostante poi abbia sentito anche l'intervento di una persona di prima, si lamentava di un numero di giorni superiore ai 60 e 90. Infatti gli ho detto che molti mandavano subito gli sms, non ti lamentare, 60 giorni, che vuoi di più? 60 giorni, no, ma la cosa però stare, per esempio nel caso, nella fattispecie, un imprenditore che chiedeva di fare i garage interrati, al quale è stato dato il diniego dopo due anni e mezzo, quindi chiaramente con un ritardo per quanto riguarda la sua esposizione con le banche per il lotto di terreno comprato, per tutta una serie di cose che avrebbe dovuto programmare, tassazione, anche poi in tutto questo passano per essere anche delle società di comodo, quelle lì che non producono. Tutto questo dopo 2 anni otteniamo il diniego, dopodiché presentiamo un nuovo progetto solamente per dei parcheggi, diciamo, di superficie, e siamo ancora nuovamente a 2 anni, quindi c'è la sommatoria di 4 anni ancora per avere un'espressione da parte del comune. Ma questo non è solo sul comune di Napoli, anche nell'Interland, sto seguendo una cosa a Sant'Anastasia sul recupero di una masseria storica, siamo a 2 anni e mezzo ancora il comune, nonostante i solleciti nostri personali, ancora non si esprime. Allora tutto questo dà la dimensione non solo di una burocrazia e di un apparato che non funziona, ma anche proprio dell'impossibilità da parte di un imprenditore di poter osare, di poter fare qualsiasi tipo di passo che possa poi produrre. Non c'è dubbio, anche perché l'allocazione della risorsa più scarsa bisogna sempre ricordare quella del tempo, e senza un meccanismo di sconto del tempo che si regoli con unità di tempo attendibili, non c'è possibilità di calcolare in alcun modo la redditività di un capitale, quindi è l'ABC di che cosa sia un'impresa e un mercato. E lo Stato naturalmente se ne fotte, perché lui di tempo ha tutto, crede di avere tutto quello che vuole. Ma è così che vanno avanti i regimi, fino al punto tale che poi arrivano delle scosse sismiche dal basso, di portata imprevista, e ogni tanto la vecchia religione per cui solo dal basso si scuotono i palazzi troppo pesanti, che non vale solo in campo sismico, vale anche nel rapporto tra sudditi e sovrani e politica, e c'è anche in Italia. In Italia, ci avete mai pensato, uno come Thomas Jefferson, che era quello che diceva, le dava sempre gli inni al diritto alla ribellione dal basso, e ne pronunciava anche per ribellioni armate, a dire la verità. In Italia i Savoia o i Borbone l'avrebbero fatto morire in un'oscura cella. Negli Stati Uniti è il padre fondatore di un paese che si basa su quel principio là, e anche lì lo hanno parecchio dimenticato rispetto alla Svizzera, che invece lo pratica meglio, per così dire. Allora, this is the end. Insomma, il dato siciliano inizia a restituire alle parole di Jim Morrison anche un significato più attuale, visto che anche ieri girando mi hanno detto leva, io non lo levo. Bene, fino a che non vedrò il risultato di politiche che rassicurano l'Europa, i mercati e soprattutto l'Italia capace di ritornare a crescere, mi pare che Jim Morrison stia bene lì dove stia. Allora, uno degli argomenti che abbiamo trattato in questi ultimi giorni, che mi ha valso centinaia di mail di avvocati furibondi, furenti, perché quello che io ho detto sull'abolizione da parte della Corte Costituzionale della mediazione obbligatoria li ha fatto infiammare, perché è sacrosanto che la Corte l'abbia abolita, perché la cosa era incostituzionale, perché non è affatto deflattiva del procedimento, ma è semplicemente dissuasiva, per questo e per quello, e perché prendersela con gli avvocati, ma era un errore, l'eccesso di delega, eccetera. Ho ricevuto centinaia di mail di avvocati furibondi. Naturalmente io confermo il mio giudizio, che mi pare da parte dell'avvocatura un rilievo un minimo un tantinello interessato, e che quindi la loro battaglia nei loro interessi abbia prevalso. E allora abbiamo deciso di sentire il professor Giuseppe De Palo, che è cofondatore e presidente di ADR Center, è tra i più grandi conciliatori in Italia e titolare di cattedra di diritto e pratica della mediazione presso scuole internazionali. E quindi, professor De Palo, intanto grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a lei di questo spazio, buongiorno. Allora, per quale motivo c'è questa felicità incomprimibile degli avvocati? E diciamo qualche cosa ancora da parte sua però in merito della sentenza della Corte. Dunque, in realtà ci sono due cose, c'è sicuramente entusiasmo, no? Ne ha parlato lei, l'inizio della fine della privatizzazione della giustizia da parte di parte dell'avvocatura, e dall'altro c'è allarmismo, no? La fine della mediazione, tutti gli investimenti fatti, tutti i risultati raggiunti sino ad ora. In realtà è prematuro dire sia l'una e l'altra cosa, perché questo è molto importante, la Corte non ha detto assolutamente che il tentativo obbligatorio, perché di questo si parla, tentativo obbligatorio, se uno parla di mediazione obbligatoria pensa che devi trovare l'accordo, no? Lo Stato ci chiede di fare un tentativo serio. Diciamo, la Corte ha detto semplicemente: quella roba lì che avete fatto, che fino ad ora ha portato a tutti questi accordi, non la si può scrivere con un decreto legislativo, che lo fa il governo, ci vuole quantomeno una legge del Parlamento, quindi un atto parlamentare. Quindi quando usciranno le motivazioni, e in effetti anche il presidente dell'OVO di Tilla invita alla calma per vedere le motivazioni, ci potrebbe essere scritto paradossalmente in quella sentenza che, come scritto in un decreto governativo, non va bene, ma se scritto in legge parlamentare va benissimo, addirittura deve essere rinforzata. Quindi la partita non è affatto terminata. Quello che però questa neanche sentenza, perché teniamo presente che stiamo discutendo di un comunicato stampa di due righe, è che ha causato un caos totale. Alcuni gli organismi di mediazione ora vogliono fare causa allo Stato perché li ha fatti investire in una cosa che non c'è più, altri invece vogliono fare causa agli organismi di mediazione. Cioè, il paradosso che la mediazione nasce per risolvere i problemi della giustizia e fa esplodere il contenzioso. Esattamente, un bubone. Ma le dico, secondo me, ecco, questo detto da osservatore esterno, il mio punto di vista. Secondo me la macchina già in moto, si attiverà prontamente sia governo e Parlamento per una serie di motivi. Come ha detto il ministro Severino a caldo, i risultati stavano arrivando e le riforme richiedono tempo, quindi strozzarla adesso non ha senso. La mediazione può dare un contributo importante, questo lo sappiamo, ci sono diversi documenti internazionali che col tempo citerò che lo dicono, e la mediazione puramente volontaria non funziona perché cosa è successo il giorno dopo l'annuncio della sentenza? Tutti sono andati a chiedere gli incentivi e gli incentivi non ci sono, quindi è la prova provata che questa cosa non funzioni. Ma c'è qualcosa di più. Nella famosa lettera di chiarimenti dell'Unione Europea all'Unione Europea che inviò l'allora ministro Tremonti, pagina 34.6, stiamo parlando di novembre 2011, quando il decreto legislativo 28 e l'obbligatorietà del tantino sono già in vigore da marzo, questo meccanismo viene citato espressamente come una delle promesse dell'Italia all'Unione Europea. Abbiamo fatto questo, ma c'è di più. Questo a pagina 32, si può scaricare su internet facilmente, il testo in inglese ma si capisce. A pagina 34.6 si dice, guarda che questa cosa qui, il meccanismo dell'obbligatorietà, ha un bisogno di una further expansion, di ulteriore estensione. Allora, io siccome professore ne avrò bisogno nelle prossime puntate ancora, noi la richiameremo e vediamo in attesa del dispositivo. E cari avvocati, attenti, perché per legge secondo me noi passeremo. È una vera guerra tra me e l'avvocatura, detilla. E se vi ha detto di aspettare vuol dire che anche lui la pensa come me. Comunque, intanto appuntamento a domani.